servito proprio per come l'abbiamo usato noi, proprio ad arrivare in maniera molto molto diretta al cuore delle persone, perché loro hanno dato tanto, ecco, e noi speriamo di avere colto i loro racconti, insomma. Luca, come sarà questo tour di uscita? A novembre è in uscita, adesso partirà con Bologna, poi Roma, Genova, Milano. Si può trovare il sito di storia del Dromiveglia. Ci saranno un sacco di date che si susseguono. E allora ricordiamo il documentario Storie del Dormiveglia di Luca Maggi in tour dal 5 novembre. Un saluto e un ringraziamento a Luca. Luca, a presto, un abbraccio e un in bocca al lupo. Un abbraccio a tutti, Ciao. grazie. Ciao ciao.